eccoci qui. Scusate per tutti coloro che apprezzavano l'Interstellar Overdrive dei Pink Floyd, ma abbiamo interrotto. Basta Pink Floyd, cioè sennò altri 5 minuti. Sì, infatti erano 5 minuti e per la previsione altri 8 secondi di Pink Floyd, ora non so quanti avessero voglia di ascoltarsi questo tin. Magari, tutti i clienti di Mono, tutti gli ascoltatori di Mono che ci abbandonano, però magari avevano piacere, però sono le 20:06. Abbiamo fatto un po' di ritardo, un po' dovuto anche a questioni organizzative da parte di Mono, che anche un po' nostre. Insomma, siamo tornati. Perfetto, siamo tornati. Ma chi siamo? Siamo i soliti spacciaserie, i soliti due stupidi, sui scasse spacci, io sono scasso. Io sono spaccio. E nulla, parleremo anche quest'anno di serie televisive, esatto, come sempre, con grandi e mirabolanti novità. Ah sì? Però le vedremo nel tempo, perché non è detto che tutte cominceranno oggi. Diciamo che quest'oggi garantiamo nessuna novità, cioè il quiz ancora, se qualcuno volesse, noi siamo sempre qui. Chiunque su Skype. Ecco, come contattarci? Allora, mi devo ricordare tutto. Vai. Allora, cominciamo con la mail. Che è facile. gli spacciaserie@gmail.com. Wow, international. Metà in italiano, metà in inglese, ma schifo. O lo diciamo tutto in inglese, tutto in italiano. Tutto in italiano. Tutto in italiano, @gmail.com. Cosa? gli spacciaserie@gmail.com. Secondo metodo per contattarci e per parlare con noi. Secondo metodo è su Facebook. Aggiungeteci, siamo gli, come nome, spacciaserie, cognome, così ce l'ha accettato Facebook. E così Mark... Ah sì, vabbè, basta. Lui ci ha accettato. Voi aggiungeteci, noi vi accetteremo. Noi accettiamo l'amicizia di chiunque. Sì. E poi quindi su Skype, dove invece ci chiamiamo? Gli spacciaserie. Attaccato. Tutto attaccato. Tutto attaccato. Tutto minuscolo, tutto attaccato. Tutto facile. Ok, accendi Skype. È già acceso. Ah, non sei troppo forte. Troppo avanti. Quindi, non abbiamo ancora una sigla nuova. Questa è la novità di quest'anno. E quindi, per la vostra immensa gioia, rimanderemo la sigla vecchia. Wow, fantastico! Sì. Io credo di aver fatto tutto giusto. E posso secondo me partire, sì. Vai. La sigla, vediamo se parte. È partita. Wow. È la notte giusta. E ne verranno altre. E altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Sigla, nuovissima sigla, tutto è cambiato, tutto è sempre lo stesso. Cos'è cambiato dall'anno scorso, cioè da luglio? Cos'è cambiato? Dillo tu, perché io a stare qui mi sento diverso. Allora, è cambiato lo studio. Adesso abbiamo un grande uno che incombe alle nostre spalle, sì, e davanti a noi un vetro ipotetico. No, è di quelli nuovi, nuova generazione. Hai visto la pubblicità quella che hanno fatto dell'iPhone 5, quella paracula, in cui facevano l'iPhone 5 trasparente e diceva guarda, si può allungare se vuoi, puoi nasconderlo nel taschiere. Era completamente un nulla che tenevano in mano ed era fantastico. Sì, è così, anche qui c'è un nulla al posto del vetro, ma forse un giorno avremo anche un vetro. Sarà uno studio fico. Piccolo, ma fico. Va bene. Allora, come è stata progettata questa puntata? Vuoi continuare con le novità che non ci sono? No, perché potrebbe essere un argomento interessante. La novità che non c'è, ad esempio, la zanzariera. Ecco, anche l'anno scorso non c'era, quindi non è una novità. È una novità che non c'è. Perfetto. Ok, detto questo, io direi di andare al fulcro della puntata di oggi. È la leva. Vai. Allora, oggi volevamo... Come dici tu? Va tutto bene, è il tuo idioma, mi piace. Volevamo parlare un po' e fare una puntata un po' come quella con cui abbiamo chiuso. Cioè un grande calderone, un purpurri, per ricordare un po' che cosa sta cominciando delle serie che ormai ci hanno appassionato, per dirci di qualche serie nuova che sta cominciando. Niente. Ok. Continua, non ti preoccupare, io faccio degli sguardi, ma tu non... No, perché sentivo qualcosa in sottofondo, ma abbiamo un sottofondo musicale? Assolutamente no. Ah, vabbè. Mi stanno chiamando sul cellulare. non erano le cuffie, infatti. Vabbè. Ok, detto questo, vorremmo insomma cominciare una puntata un po' in questo modo e vedere un po' poi come si evolverà, c'è cioè un po' di improvvisazione così. Tutto questo perché? Perché abbiamo detto, visto che è la prima puntata, visto che magari non tutti ancora hanno capito che oggi ricominciamo, visto... E dico, visto che abbiamo fatto 2 ore fa l'evento su Facebook, quindi diciamo che la gente che ha letto dell'evento è veramente minima. Ma c'era un discreto numero di persone. Ah sì? Non ho controllato, ora vado a vedere se è una fregnaccia di picco. Un discreto, poi... Cominciamo con la serie TV di cui tu vorresti parlarci, una delle tante di cui vorresti parlare. Una delle varie di cui... Cosa hai cominciato? E cosa hai cominciato a guardare? No, io una di cui vorrei parlare in realtà è finita, però no. È una di cui non abbiamo parlato... Ma è triste, è finita. Però forse la continuano, forse no, ancora devo scoprirlo. Qual è? Alphas. Ah, è strana. Io ho guardato le prime 2 puntate. Sì. Poi ho detto, è troppo simile a Heroes, è troppo simile a un'altra... Però, ma scusate, spoiler! Non abbiamo più il tasto Non abbiamo spoiler. Un tasto spoiler. Forse ce l'abbiamo... Dopo controlliamo se ce l'abbiamo. Ce Io l'abbiamo. Credo che Leo abbia azzerato tutto. E invece no. C'è già della roba qui sotto. C'è già della roba. Scusate se noi rimaniamo... Oh, ma che bello! E invece c'è. Cioè, possiamo mandare questo? Forse. Forse sì. Spoiler. La vecchia sigla spoiler con i bambini che ridono. Ma infatti io l'avevo cancellato quel file, ma lasciamo perdere. Comunque, sì, mi piaceva parlare di Alphas. Te invece come prima serie che cosa ci proponi? Sto entrando nel panico. Potrei proporvi New Girl. Wow. Tu hai già visto New Girl? No. Ti avevo detto, guardala, brutto animale. È vero, lo ammetto. E vabbè, è tutto a scatafascio. Allora, questo è quello che, di cui parleremo a breve. Adesso direi, mettiamo un bel brano musicale. Facciamo un po' di gnam gnam. Facciamo un po' di gnam gnam. Ci finiamo di sistemare in questo studio nuovo. E intanto vi facciamo ascoltare. Allora, ti faccio ascoltare. Scusate che mi è venuto naturale. Guarda, io proporrei con un pezzo easy, partirei con un pezzo easy, dei Boy, che in realtà è un duo, tutto femminile. Sono due ragazze tedesche. Mi sembra un nome azzeccatissimo. Non l'ho scelto io. Sì. Sono due ragazze tedesche che cantano insieme, una al piano, l'altra solo voce. E questa è Little Numbers. Buon ascolto. Rieccoci qua. Allora, avremo una piccola domanda da fare a voi, nostri carissimi ascoltatori. Una solita questione tecnica. Allora, visto che questa è una fantastica radio che si fa da sé, avremo bisogno di chiedervi se le prossime frasi che dirà il mio co-conduttore voi le sentite oppure no. Quindi, se sentite le frasi, ci scrivete in chat, sì, abbiamo sentito che cosa sta dicendo Scas, altrimenti no, ok? Grazie mille. Salve a tutti. Mi sentite? Io forse sì, ma molto basso in realtà. Però fatemi sapere, scrivetemi in chat. Ditemi, sì, ti si sente, puoi smetterla di parlare perché ci hai rotto le scatole. Più o meno, cosa vorrà dire? Vorrà dire che è un microfono fuffo. Vorrà dire che ti sente a basso volume. Mi fa piacere. Ok, perfetto. Detto questo... Iniziamo a parlare di Alphas. Ok. Avevamo deciso così nella pausa. Nella fantastica pausa. Allora, io ho un filo corto qui. Un attimo. Faccio così. Mi allontano da te. Tutti noi parliamo allora, a basso volume di altre cose. No, ci sono. Allora, Alphas è una serie che è andata in onda, ha cominciato ad andare in onda l'11 luglio. Di quest'anno, la prima puntata è stata l'11 luglio. Non so perché non abbiamo parlato, forse addirittura la nostra ultima puntata è stata prima. Possibile? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo neanche. Comunque sì, in effetti, come accennavi un po' te, è una serie che ricorda moltissimo Heroes. cioè si parla di gente dotata di abilità particolari. E che queste abilità derivano effettivamente dalla genetica, da come sono fatti loro. Ho capito. E quindi, quindi? Ecco, la cosa interessante, un pochino diversa dai Heroes, è che lavorano tutti... C'è un piccolo gruppo, diciamo, che lavora insieme. Una squadra di... tipo squadra investigativa. Ma lo scopo qual è? Lo scopo, ora, parlare di scopo è uno scopo un po' esagerato. Vedi che era una serie fuffa, ecco perché io ho smesso di guardarla. No, è molto divertente, è molto divertente invece. Ah, sì. Cioè, ad esempio, ti faccio un po' di... ti faccio capire un po' quali sono i superpoteri che ci sono. Vai. Ok. Allora, c'è una ragazza che riesce a, ad incrementare la sensibilità di tutti e cinque i suoi sensi. Per cui sente l'odore anche di... pochissima era roba. Era quella che però entrava in trance, quindi gli potevi fare di tutto nel frattempo. Cioè, poteva caderle un masso addosso, nel frattempo lei non se ne accorgeva. Cioè, dipende. Ad esempio, se stava amplificando l'udito, se ne accorgeva. Come? Se stava amplificando l'olfatto, no. Perché ne poteva... cioè, a livelli esagerati solo uno alla volta. Ah, ok. A livelli molto più alti, tutti, anche tutti a 5. Sì, però se tipo sta concentrata con la super vista, deve guardare lontano lì e dietro uno le tocca la spalla. Cioè, io non credo che lei si renda subito conto. No, beh, no, non lo, ora non andiamo a sottilizzare su queste cose. Sono cose importanti, perché la gente vuole sapere questi superpoteri a cosa portano. Esatto. Poi tipo c'era un altro tizio, che in realtà poi compare nelle puntate un pochino più avanti, che è in grado... di più che predire il futuro, sapere esattamente il causa effetto. Cioè, lancio una moneta, questa uscirà, cade, so che dall'altra parte della strada fra 5 minuti quella persona inciamperà. Ah, cioè la correlazione tra tutti gli eventi. Fra tutta la serie di eventi. Ah, ok. Mazza. È fighissimo. È fisico. Abbastanza. Cioè, no, lui è fisico, no? È solo superpotere. È solo superpotere. Oppure tipo c'è una tizia che può, vabbè questo è già più banale come superpotere, influenzare psicologicamente qualcuno, cioè forzarlo a fargli fare delle cose. Ma questo già si è già visto come superpotere, è già più... Eh sì, è tipo quella di Misfits, no? Che ti faceva venire voglia di... Sì, solo che quella di Misfits era abbastanza settoriale. Lei ti forza a far ciò che vuole lei. E tra l'altro ti dimentichi del frangente in cui tu hai fatto le cose che voleva lei. No, faccio il sottofondo musicale che oggi non abbiamo. Me ne sono appena reso conto, allora... intrattenevo il pubblico con questo dolce. Col volume basso e con... non se ne accorge. Oppure tipo un altro superpotere, che è quello secondo me più bello in assoluto. Quale? È quello di un ragazzo autistico. Capito. Me lo ricordo che... Sì, sì, non lo dire, lo so. Quindi... Ma no, ma lo ok, so, insomma è questo ragazzo autistico che riesce a percepire, a leggere tutte le frequenze possibili. Per cui ascolta le trasmissioni radio o video, vede le trasmissioni video anche senza... cioè... Echelon. No, non lo so, ho detto una parola che mi è uscita. Ok, e questo è un po' la cosa. E lottano tutti, questo gruppo... Lo scopo sta arrivando, vediamo. Lottano contro un gruppo che si chiama la Red Flag. La bandiera rossa. Esatto. Finché vedrai sventolar bandiera rossa... No. No, no. È un gruppo comunista. No, non, ancora... È apolitico. È apolitico. Ah. È soltanto ci uno dispiace, di quei... Ci dispiace per chi pensava ci fosse... Come la radio è apolitica, noi ci dispiace. Anche qui. Scherzo. E insomma, niente, è questo gruppo che vuole preservare la... la varietà genetica, perché c'è il governo che cerca chiaramente di andare con... Cioè, è uguale a Heroes, non mi ricordo quale stagione, ma è la stessa trama. Cioè... Vabbè, però questa è la prima, è un po' la... però è molto divertente, secondo me. Ma io lo consiglio. Ah sì? Sì. Tu dici. Ecco, la prima stagione è finita, e della seconda stagione non sono riuscito a trovare notizie. Ora, mentre andrà il prossimo brano musicale, ne cercherò... ancora altre, così magari possiamo dire altro. E quindi passiamo alla nostra selezione musicale di quest'oggi. Vai. Che ci propone un brano di un danese, credo danese, Jens Lekman. Wow, com'è diverso parlare a questo microfono, mi sento molto già più cool. Insomma, questo Jens Lehmann, che è stato famoso per un po', poi è entrato nell'oblio perché non produceva più pezzi, e ora è tornato con un nuovo album che io non ho ancora ascoltato, però questo pezzo è davvero, davvero molto bello. Solo per voi, ascoltatori di Radio Cicletta, Jens Lehmann con An Argument With Myself. Allora, com'era questo pezzo? Spatch. Bello, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Decisamente sì. Comunque ho ballato anche qui, perché Inef chiedeva prima se ce la facevo a ballare. Ce la faccio. Evviva, tutti sono abbiamo più contenti. Abbiamo abbastanza spazio anche per ballare qui. Incredibile. Anche qui per... sì, è uguale, ma... è commutativa la cosa. Dunque, adesso tocca a me. Esatto. Ah, parliamo, abbiamo risolto, parliamo tutti allo stesso microfono e pace. Peace and love and serious TV. Dunque, riprendiamo un minimo di serietà. Avevo detto, avevo preannunciato che vi avrei parlato adesso di New Girl. New Girl, che cos'è New Girl? La nuova ragazza. Bravo, di chi? La tua. No, purtroppo ancora no. Non è pervenuta. Ma passando ad argomenti più interessanti, cioè le serie TV e quindi New Girl. New Girl di cosa tratta? Di questa tizia, abbastanza sfigatella. No, povera. Come al solito, cioè nel senso, io parlo sempre di serie TV in cui ci sono sfigatelli. Allora, tu dici a me che tanto la serie è sempre la però tu sembra sfigato, cioè che sia uno però, che sia uno. Però aspetta, perché questo ti riterverà tantissimo. Allora, come comincia? Comincia con questa tizia di cui ora non ricordo il nome, Jess. Calma, e tu hai detto qualche nome fino adesso di Alphas? No, però non ho detto notizia di cui non mi ricordo il nome. Polemica, spoiler, no, non c'entra. Dunque, Jess sì. Va a fare un colloquio per essere presa in una casa. Che questo fa molto fuori sede, studenti, quindi guardatela. No, no, però il colloquio sembra è strano. Sembra la mia storia. Ah, tu sei una ragazza e sei andata in casa con tre ragazzi? Non no. È la tua storia. Bene, è la storia di Jess. Jess va a fare questa interview, diciamo. E chiede appunto di essere accettata in questa casa perché lei cosa le è successo? Perché non aveva un'altra sistemazione dove andare? Cioè perché non poteva andare in una casa di donne? Allora, in un pensionato, ad esempio. Ora non lo so, perché comunque non è una studentessa, è abbastanza cresciutella, dice, avrà una trentina d'anni, vogliamo dire trentina? L'abbiamo detto, avrà una trentina d'anni. Bene. E cosa succede? Lei a un certo punto della sua vita aveva un ragazzo, un uomo con la coda che lei trovava bellissimo, con dei capelli straordinari. In realtà fa cagare, secondo il mio modesto parere, però in generale, diciamo, parliamo in generale, perché questi così spoiler anche delle mie sensazioni la gente non lo vuole sapere. Dunque, Jess era fidanzata. A un certo punto nel disquisire con il ragazzo, sai, ma cosa ti piacerebbe, cosa ti eccita di più, era venuto fuori che... Ah no, cosa ti piacerebbe, tipo che dolce ti piace. No, proprio qualcosa di più hot, diciamo. Era venuto fuori che a lui sarebbe stato sorpreso da una sorpresa con lei che faceva finta di essere una hooker, una... meretrice che si presenta come si dice adesso? Escort. Ecco, vedi, è quelle che vanno tanto con la politica. Ma quindi l'hai fatto dire a me? Sì. Va bene, sì. Insomma, queste macchine che vanno tanto per la maggiore adesso. E quindi lei si presenta nel suo appartamento, che è suo di lui, di lei, perché convivono. Però... Nel loro appartamento. Esatto. E oggi non ho i pronomi. Sventolando la borsetta in impermeabile, con sotto l'impermeabile assolutamente nulla. Allora lei entra in casa, si mette vicino al divano, aspetta che lui lo chiama, lui esce, fa: ma cosa stai facendo? Lui fa, e lei comincia con la borsetta, così fa, sai, io mi avevi chiamato, così comincia a denudarsi, mentre lì che fa la stupida, che poi canticchia, perché lei c'è questa cosa che tutto quello che accade nella sua vita, lei lo deve canticchiare, deve creare un motivetto, una specie di jingle di se stessa, no? È fantastico, fa morire, fa schiantare le risate. E a un certo punto però, mentre il ragazzo esce e la sta guardando e si vede che comunque è un po' sconvolto perché c'è qualcosa che non va, esce dietro la spalla del ragazzo un'altra ragazza, anche lei è abbastanza discinta, e lei si trova nella situazione di che cavolo di figura ci sto facendo adesso. Immagino che anche tu ti sia trovato in una situazione del genere, è la tua storia. Sempre, sì, infatti, proprio rispecchia esattamente la mia storia. A quel sì. punto, chiaramente, lei deve lasciare il ragazzo e l'appartamento, e quindi sta cercando un'altra sistemazione, cercando online, trova questo annuncio e va a fare questo. Ci si butta a capofitto. Esatto, racconta tutta questa storia strappalacrime, dicendo i suoi futuri coinquilini, che comunque lei ha un po' di difetti... Nel senso che a volte guarda dei film strappalacrime, li guarda sempre e ripetitamente, sempre gli stessi. A volte nel senso che qualche minuto durante la giornata non guarda. Esatto. Film, okay. E insomma, loro però, a un certo punto lei dice, ho delle amiche modelle e loro la prendono. Ecco, questa è la motivazione un po' per cui... è molto carino perché ci sono questi tre giovani che l'accompagnano, che sono i coinquilini. Tra l'altro... sono due bianchi, so che è un discorso un po' razzista, sono due bianchi e un nero, però il nero a un certo punto dopo la prima puntata abbandona perché no. gli è stata riconfermata Happy Endings, che è un'altra serie TV di cui non ah, so ah cioè non è che abbandona nel senso cioè no lo fanno andare via, dicono il capo è andato via perché triste. È tornato quest'altro e fanno tornare un altro di colore sempre. Quindi non cioè, è colpa mia se sono razzista, ma è la serie TV cioè che per mantenere sempre o almeno uno di colore. Esatto. Sì, deve essere come la quota nera. In America ci sarà la quota nera, non lo so. Vabbè, noi insomma, abbiamo un tot di donne, no? E loro la quota rossa, noi, loro hanno la quota nera nella serie TV. Boh, non lo so. I Robinson avevano stravinto la quota nera. E va bene, quindi questo è un po' più o meno, non vi dico tutto perché sennò comunque si crea abbastanza un legame tra questi tre e lei che diventa un po' l'ago della bilancia tra il loro equilibrio. E insomma è molto simpatico. Poi per adesso sono usciti ancora tre episodi, quindi è fresca. Bella, giovane, potete guardarla. E nulla, adesso cosa ci propone la nostra playlist? Io direi di andare con questo pezzo che è molto molto carino. Oh mm-hmm. yeah. E sono gli Architecture in Helsinki. Con questo cosa brano faranno di lavoro? Cantano. Con questo fantastico brano che si chiama, signori e signori, Escapi. Che non parte. Invece sì. La canzone preferita dagli arrestati? Beh, un po' sì, devo dire che hai ragione. Intanto mi stai versando, non so che cosa sia questa cosa qui davanti a me, sembra gassosa, gassata. Esatto, risposta corretta. Ho vinto qualche cosa? No, non hai vinto niente. Ma hai vinto un bicchiere di gassosa. Va bene, ma adesso torniamo a bomba sulle nostre serie TV preferite. E parliamo di... Non lo so, devi parlare tu adesso. Tocca a te, tocca a te. Ma avevi detto adesso? Ah no, allora parlo di... Va bene, parlo io, va parlo bene, parliamo di... Mi hai fatto parlare fino adesso. Certo. È per questo che parliamo di Terranova, hai capito? Il cane, è bellissimo il cane Terranova. Non ci sono cani, diciamo che andiamo in un posto dove non ci sono ancora i cani. Hai capito di cosa stiamo parlando? Forse. Secondo me, che te lo devo dire, si parla di Steven Spielberg. Perché dove ci sono queste cose nel passato, oppure nel futuro, oppure in altri luoghi. C'è sempre. E infatti lui è il produttore di questa nuova serie TV, che tra l'altro ho scoperto che va anche quasi in contemporanea in Italia, su Sky, ed è Terranova, che non era il cane. Terranova parla di questo, parte dal futuro. Ah, cioè parte proprio dal futuro. Esatto, parte dal futuro. Però poi non ci resta tanto. Sarà una mezz'oretta che dura nel futuro, poi torna indietro, indietro, indietro, indietro. Cosa succede? Ci sta questo futuro in cui tutto è sgarrupato, come dicono a Napoli. È tutto disastrato, non possono uscire perché l'aria non è irrespirabile. E, insomma, stanno morendo. Stanno male. Stanno in questi alveari umani, in queste casupole, viene la polizia. Non puoi... Ah, la cosa importante... da cui prende spunto questa cosa qui è che non possono, la famiglia non può essere composta da più di quattro elementi: terra, fuoco, aria, acqua. No, quattro persone: madre, padre, figlio, capito? Cioè, due figli massimo. Perché? Perché siamo in Cina. Insomma, un po', perché comunque le risorse sono quelle che sono, l'aria sta finendo, insomma, un'altra persona in più è un'altra bocca da sfamare, insomma, basta, non si può fare, preservativo, non lo so. Comunque, diciamo che c'è questo poliziotto, sì, che tu dici rispetterà la legge, invece no, c'è la bambina in più. Ma è sempre lui. Chi è? Vabbè, vai, sì, ma okay. Chi è? Ma dimmelo. Io non so, curioso, no, chi è? Lui è quello che faceva. È venuto a mangiare a casa tua. Il poliziotto, sempre poliziotto. A quattro zampe, no, perché nella Teen Invasion. Non l'ho visto. E beh, dopo queste cose, tue, quelle del... Vabbè, perché questa pure è mia. Ma perché? Non l'hai mai vista tu? No, non l'ho vista, però piace a me. Di solito non ti piacciono queste cose, spero. Perché tu non sai ancora di cosa parla. Allora, ho paura. Si parte dal futuro. Questo poliziotto c'ha una figlia in più, quindi sono in cinque. A un certo punto viene una perlustrazione. Loro nascondono la bambina nel condotto dell'aria, però se ne accorgono. E quindi, siccome il padre reagisce, avrebbe avuto solo una multa, gli avrebbero tolto la bambina, qualcosa del genere. Ma siccome il padre reagisce, lo buttano nel gabbio. Allora, dici, gli avrebbe fatto solo una multa e gli avrebbero tolto la bambina. Cioè, come se stessimo parlando di... Sì, vabbè, ti faccio una multa, ti tolgo la patente per due mesi. Ho dei parenti in Cina. Dunque, invece di prendersi sta multa e levarsi la bambina, lui attacca il capo della polizia. Giusto. Lì, sì. Reagisce violentemente. Violence. E lo sbattono in la cella. E lui rimane per svariati anni. E canta Escape. Esatto, è lui che ha composto la canzone. È lui l'architetto ad Helsinki. Dunque, cosa succede quindi? Che però... c'è un varco... Paura. Spazio dimensionale temporale. Pure dimensionale. Ma questo non lo so, l'ho inventato adesso. Insomma, c'è questo varco temporale che ti riporta a una certa età in cui l'aria è pulita, il mondo è bello, però ci possono andare solo pochi, vengono selezionati, perché devono fare una nuova umanità decente, diciamo. Certo. Okay, ma è nel passato? Però non si sa se è la Terra o è un altro ambiente simile alla Terra. Che non si sa dov'è. Non si sa dov'è. Okay. L'hanno scoperto a caso, perfetto, facendo degli esperimenti dei fisici, quelli nel Gran Sasso che hanno aperto il tunnel. Quelli del tunnel. Esatto, quelli là. Con i neutrini hanno fatto l'esperimento e si è aperto sto tunnel che li portava in questa era qui strana, in questo posto diverso. Perfetto. Che si chiama Terra Nova, appunto. Nome originale. Beh, ecco, l'ho inventato io. Ah, prendila con Spielberg. Prendi con Spielberg, che è il produttore esecutivo, insieme ad altri 10.000 cristiani che ora non vi sto ad elencare. Quindi, cosa succede? Che lui chiaramente non può andare lì perché sta al gabbio. Certo. Però la moglie con la famiglia, che è ora di quattro elementi, quindi tutti va bene. Va bene, vengono selezionati perché lei è una medica, una medichessa, una dottoressa coi contro. Con i contro. Esatto. Nonostante donna, la quota rosa. E viene selezionata per andare in Terra Nova lì a stare lì in ospedale, a fare il medico, a fare quello per cui deve essere pagata. Allora lei cosa fa? Ha paura. Spoiler questo, però è tanto il primo spoiler, ma non ci abbiamo. No, ce l'abbiamo, è qui. Spoiler singolo devi fare, quello il 32. Spoiler. Esatto. Che è un po' complicato qui. Sì, perché c'è poco. Dobbiamo passarci l'uno sull'altro. Come sei caldo. Sì. No, non sei caldo. Meno male sta la finestra aperta. Dunque, quindi lei organizza, va a parlare con lui che sta al gabbio, riesce a fregare 5 minuti con la guardia, si organizza, va a parlare e dice qualcosa. Insomma, lui riesce in qualche modo a uscire da questo posto. E va anche lui a Terra Nova. Aspetta, mica è così facile. Insomma, riescono a prendere questo, recuperare la bambina. Ma? E riescono a imbucarsi. Si imbucano. E lui fa l'imbucato. Si riesce a imbucare. Appena arriva là, siccome si è imbucato con l'arma, tutti quanti fanno: qua si viene senza armi. Al massimo se le diamo noi quelli che decidiamo far fare la polizia. Altrimenti no. E quindi, comunque. Perché tanto è un verso solo. Non è ben chiaro, però sembra che sia molto molto difficile tornare indietro. Per cui dice, vabbè, ormai sei qui, o ti mettiamo al gabbio oppure ti facciamo lavorare, vediamo che intenzioni hai, e lo mettono a lavorare. Perfetto. E quindi c'è questa famiglia che si deve ambientare in questo nuovo ambiente, che vanno a ondate, no? Mm-hmm. Questa è la decima ondata, quella con cui arrivano loro. Mm-hmm. Vanno a ondate di immigrazione. consentita qui. Siamo molto sul la politico Lampedusa, la Lampedusa sì, è la Lampedusa di Noart. In pratica, io che cosa non ho detto? Che lì ci stanno i dinosauri. Questa è la cosa. Ci stanno i dinosauri. Perfetto. Ci sono gli uomini. Questo era lo spoiler. Gli uomini moderni con i dinosauri. Con i dinosauri. Jurassic Park. Cioè Spielberg, sempre lì siamo. E Steven Spielberg, cioè Spielberg fa le cose sempre uguali. Ecco. Posso dire un'altra cosa che non c'entra niente con la nostra trasmissione? Se devi bestemmiare su Steven Spielberg non vale la pena. Cioè, allora, però un'altra cosa che ha fatto Spielberg, di cui non è proprio regista, ma è produttore, che è uscita quest'estate al cinema... Non l'ho vista, perché io... Però... avevo sentito l'odore di baccata, diciamo. Però... Qual era? È uguale... Qual era? Molto qual simile... era? Dillo, tu che hai avuto il coraggio... Super 8. Vai a vedere queste cose. Ma hai una certa età. Hai una certa. Volevo vedere Green Lantern. Vabbè. E allora, bravo. Comunque è uguale ad altre cose. È un mix di tutte le cose che ha fatto Spielberg. Spielberg ricicla. Ultimamente viene non bene, idee. Però. È un... Beh, dai, su, è bravo. Avrà l'età bravo, che ha, ma però porta ricicla. Ora guardo poi Terranova e poi vediamo. Se non è riciclato, intanto guardalo. Ok, mo lo guardo. Che non hai guardato un cavolo fino adesso. Cioè, sto facendo tutto io qui in mezzo. Mi lamento, sì, mi lamento. Oh, vabbè, e intanto, siccome sono buono, ti metto anche un pezzo di quelli che mandano le radioserie. Quelle... Addirittura le radioserie. Cioè, serio, cioè nel senso che uno sputana. Cioè, nel senso che va per la maggiore, si dice così, no? Katy Perry con Last Friday Night. Wow. Te lo metto. Poi c'è TGIF. Ma lo sai che ho chiamato in America e ho dovuto fare lo spelling, è una cosa terribile. Ma TGIF che significa? Ma che ne so io, secondo te? Chiedilo a Katy Perry quando la incontri la prossima volta. Ah, perché è proprio il titolo è Last Friday Night TGIF. Sì, into the brackets, nelle parentesi. Com'è difficile fare la radio. Rieccoci, anche se potevamo rientrare un momentino prima. Ma stavo bevendo la gassosa, uffa, non okay. Si può distrarre una. No, distraiti. Dai. Poi siamo entrati giusti. Giusto. Era che tu eri bravo, cioè l'anno scorso eri bravo che facevamo tutte le cose, le entrate sfumate, tutte le avevamo cose. I pezzi in sul background. Il background, cioè il tappeto musicale. E mo quest'anno, il tappeto. Per quest'anno tutto verrà... Nel tempo. Ora, volevo dire una cosa. Ora tocca a te. Ecco, tocca a me. È facile. Non parlo... Di serie nuove, Nuove, voglio una serie... non voleva parlare di... Dai, su, okay. Parla di quello che vuoi. No, parlo di una cosa che vuoi, perché l'ho accennato prima e mi sembrava giusto chiudere il discorso iniziato. Che scusa, becera. No, volevo dire due parole su Invasion. Invasion, ne volevo parlare e mi ero anche preparato per parlare all'ultima puntata a luglio. Sì. Infatti l'ultima puntata doveva essere su Lost, la seconda parte. No, l'ultima puntata, quella che abbiamo fatto tutte le puntate, tutte le serie estive. Sì. Comunque, ma tanto non ci credo. Tu non credi, cioè, io sì. Comunque Invasion è una serie molto divertente. Divertente? Un genere un po' fra l'horror e il fantasy, però a me è divertente, attenzione, per lui il divertimento è tra l'horror e il fantasy, si colloca proprio lì, è proprio i due estremi, l'horror, il fantasy, il divertimento è nel mezzo. Sentite, oh, Invasion, sì, di cosa strana. Parlerà? Delle cavallette? No. Poteva essere, devi ammetterlo. Le formiche! No. Ma di alieni che arrivano in un piccolo villaggio. Cioè... Ma la posso cosa dire che guardi sempre le stesse cose? Anche tu, cioè. Ma almeno io guardo gli sfigati, tu guardi sempre gli alieni, basta, non verranno per adesso. Oh. Non lo so. Vabbè, verranno. Se guardi la domenica, tu la domenica sera, guarda Mistero, scopri delle cose fenomenali. Baccate fenomenali, certo, non ho anche dubbi. Comunque io non la guardo la televisione, quante volte lo devo dire? Non lo guarderò Mistero. Vabbè, si trovano le puntate anche in streaming, se vuoi. Comunque. Vabbè. Se vuoi te lo registro. Non c'è limite al peggio. Stavamo dicendo che Invasion arrivano questi alieni in un piccolo villaggio. La cosa strana è questa. Uno si aspetta l'omino verde che arriva lì e che fa le cose. Invece è blu. Oppure l'omino blu, no, non è il colore che cambia. Oppure ti aspetti, che ne so, che venga e sostituisca una persona e si metta a fare i favori e le cose. Un mutaforma, lo so, Fringe! Spoiler! No, spoiler, non è, no spoiler. Neanche questo. No. In realtà cosa succede? Arrivano questi alieni, si sostituiscono alle persone. No, hai detto ma, un attimo fa, non si sostituiscono. Ma? No, ma? La, ma la domenica non... italiana, c'è qualcuno che... La persona non se ne rende conto. Cioè rimane una coscienza. Rimane la coscienza di sé. Ma i movimenti sono tipo burattino. No, cioè, no, no, anche i movimenti sono gli stessi, però è un alieno. Aspetta. Cioè, la cosa intrigante è questa. Tipo, tu un giorno ti rendi conto che non sai più cos'è successo delle ultime tue 12 ore. Cos'è successo? Sei cambiato? No? Tipo, non ti ricordi più delle ultime 12 ore cosa è successo. Ah, cioè tu cadi in sonno. Poi ti risvegli e per te è tutto normale. Poi, e qui ci sarebbe un bel tasto 32. Spoiler. A un certo punto trovi il tuo cadavere da qualche parte. Tu uomo. Tu essere umano, non alieno. Tu. Fino adesso non sai. È occupato fino adesso, comunque. Tutti sti tu. Cioè, tu fino adesso non sai cosa sei, no? Tu però vedi a un certo punto il tuo cadavere e dici, oh, cos'è successo? E scopri di essere stato trasformato dagli alieni. Ah no, pensavo che entravi in quell'altra serie TV in cui c'erano i morti, come si chiamava quella? Walking Dead? No, quella in cui c'era la tipa che le cadeva il bagno dell'aereo addosso. Ah, Dead Like Me. Ecco, bravo, vedi che te qualcosa te la ricordi ancora. No, io tutto ciò che guardo me lo ricordo. Comunque è molto divertente la serie. Basta. Se io ve la consiglio. È finita così? Questa è tutta la presentazione? No, vabbè, questa... Ma perché? Ma io ho messo mezz'ora per parlare dei dinosauri. Che tu ora te ne esci. Vabbè, questa ma cosa perché che rimane... tu il dinosauro non lo volevi dire. Io vedevo qui l'immagine. C'era questo pterodattilo lì che volteggiava lì sopra. È una specie particolare di pterodattilo. Di pterodattilo. Di pierodattilo. Pierodattero potrebbe essere, però. Vabbè, insomma. Comunque è molto divertente. È una stagione sola. Ah, una sola. Una poi l'hanno chiusa, per fortuna. No, poi finiva lì. Finiva lì. Infatti la volevo consigliare per l'estate. Perché dici tanto una cosa leggera, la cosa lì. Però è molto divertente. Cioè, bella, è intrigante, appassionante, è molto thriller. Quelle cose un po'... Va bene, adesso signori, dopo aver ascoltato la presentazione straordinaria, come fanno i DJ quelli esaltati. Quelli seri. Esaltati. Di Invasion, signori, che ha appena parlato Spatch. Noi mandiamo un pezzo, questa volta non è un pezzo commerciale, anche se potrebbe benissimo diventarlo. Attenzione, signori e signori, Florence and the Machine, we shake it out! Che pronuncia, ragazzi, che pronuncia! Regrets collect like old friends. Beh, questo era tutto un altro livello rispetto... Proprio musica fiorentina. Rispetto a Katy Perry. Faccio finta di non aver ascoltato quello che hai detto. E passiamo. È bello dire cose stupide sulle canzoni che proponi, lo sai? Ti odio. No, scherzo, co. Tra l'altro, ora, per dare merito e atto di quello che fa questo uomo, questo mio, me lo sono scelto apposta. Sai come quando ti dicono perché l'hai sposata? No, perché sa cucinare. Ecco, lui, il mio Cococò, porta sempre la pizza oggi. Mi ha portato anche il dolcino tipo torta sacher con il cucchiaino che ora dopo la puntata andremo ad assaggiare e faremo morire di invidia il povero Luca che sarà qui a fare la puntata e ci guarderà mentre... No, ma non mangiamo anche prima. No. Vabbè, vedremo. Faremo morire di invidia. Ecco appunto. Il povero Luca. Poi se ne esce, non mi piace la cioccolata. Potrebbe benissimo andare così. Comunque... Guarda come siamo... È bello essere scelti per certe cose. Tipo fare radio perché? Perché sai cucinare. Eh? È perfetto. Comunque. Ora che lo sai, mi raccomando, ogni puntata mi devi portare qualcosa. Oh, questa volta una caramella. Vabbè. Dunque, quella di cui volevo parlarvi adesso è una serie che molto probabilmente verrà chiusa. Non lo so, ho questo sentore, però è simpatica. È quella simpatia un po' retro, però che funziona in fin dei conti. La serie... Ma è tipo humor inglese? Un po' sì. Un po', ma però. Un po' no. Ma un po' no. È perché è americano. Il francese. No, è tra inglese e americano. Non sono mica come te, oceanico. Tra l'horror e che cos'era. Oceanico. E fantasy, il divertimento. Dunque. Un humor oceanico. Esatto. Atlantico. Cioè, qua battute proprio, cioè. Uno humor atlantico ti va bene? Oh. Oh. Insomma, fammi pensare a quello che devo dire, che io non lo so, perché è uscito soltanto il primo episodio, quindi... Prendetelo con il beneficio del dubbio, è bello il primo episodio, il pilot è molto carino. Oggi esce il secondo, è uscito il secondo. Là, io sto qua, come faccio? Dammi il beneficio del non vabbè, so cosa. Vabbè, oggi è uscito il secondo, cosa hai fatto oggi? Potevi guardarti il secondo episodio di... In streaming dall'America, certo, certo. Ecco. Comunque, come faccio a sopportare? Meno male che cucina. Dunque, anche qui c'è sempre lui. Come si chiama lui? Secondo te io lo so? Ecco, io con i nomi e con le date e con i numeri, quello è un mestiere tuo. Oh. No, l'altro, Kevin Dillon. Esatto, Kevin Dillon è il protagonista e David Ornsby, credo, si pronunci così. Dunque, quindi andiamo ad analizzare un po' qual è il fulcro di questa storia. Serie TV, esatto. Che si chiama, ridiciamolo? How to be a gentleman, l'ho già detto. Ah sì, cioè come essere un gentleman. Un gentiluomo. Come diventare? No, come essere, proprio how to be a gentleman. And so, la storia è incentrata su questo tipo che appena lo guardi dici, ma da che epoca è uscito? Perché è quello tipico inglese con il golfino, la camicina, tutto papillon, tutto vestito elegante. Cioè, quando elegante, cioè non... Bastone? No, il bastone cilindro. No. No, quello no. Cioè, fracco. È abbastanza moderno perché è in America ambientato, quindi, voglio dire, non è che può fare proprio l'inglese. Però comunque si vede che lo stile America è quello lì. 1492 in poi, cioè, non è che... America odierna. Ah, mo, ok. Mo. Ah, vabbè, perfetto. Beh, okay. Basta capirci. Ah, come devo fare, come devo fare? Comunque, dunque, sì. Lui conduce, è un giornalista, e ha una rubrica sul suo giornale che si chiama appunto How to be a gentleman, in cui lui dà consigli su come comportarsi, però dà consigli un po' datati, diciamo. A un certo punto però il giornale vende poco, viene acquistato da un altro editore, sì. E l'editore dice dobbiamo svecchiare qua, dobbiamo fare tipo un Forman Magazine, hai presente? Wow. Una cosa per uomini sì, però giovani, muscoli, cioè testosterone, proteine, oh, yeah. Prozac, carboidrati, dobbiamo dire roba così. Vitamine, macrobiotici, no, sembra donna questa cosa però, dunque. Non ti nascondo che lui, il protagonista, il giornalista della rubrica How to be a Gentleman, si trova un po' spiazzato. E naturalmente lui non vorrebbe cambiare registro, anche perché lui vive proprio così, quindi è una cosa che sente proprio propria. Solo che lo deve fare, altrimenti lo cacciano. Allora cosa fa? Per riuscire a scrivere di questa cosa qui, di come comportarsi, ritrova un suo vecchio compagno della scuola. Sì. Che lo trattava malissimo perché era un po' il bullo della situazione. Che ora ha. Cioè, quello che era il figo della situazione. Cioè, quello no, che non era figo, lo sfigato. Sembra lo sfigato. Oh, mamma prego. Mia, però, come sempre. Sei? Oh. Un attimo, un giornalista arrivato, cioè scrive per un grasso giornale che sta per chiudere. E allora, non credo sia proprio così sfigato, ecco. Ma sta per chiudere il giornale. No, non so utilizzare, sono tutte le parole che dico. Quindi, lui capisce che forse può usare questo suo, diciamo, amico per capire i comportamenti dell'uomo moderno, l'uomo truzzo, l'uomo palestrato, e parlarne nella rubrica. Questo è un po' il pilot, e chiaramente lui comincia a comportarsi in quel modo lì, cioè per capire un po'... Cioè fa il truzzo col papillon? No, è un po' complicato, cioè diventa più uomo rispetto a come gentleman. Più macio. Più macio. Cioè, va in palestra col papillon, tutto è papillon. Brutto. Vabbè, ora... è papillon, cioè proprio brutto. Spoiler. Ah, non diciamo null'altro. Bene, io sparavo a caso. No, vabbè, non infatti non ne va in palestra col papillon, però voglio dire, non lo diciamo ora. Okay. Lasciamo il dubbio alla gente, in modo tale che poi torni e possa contribuire a guardare queste cose. Ma cosa stiamo facendo qui adesso noi? Stiamo facendo delle piccole chiacchierate, no? Tra amici, tra io, tu e gli ascoltatori, quei pochi che ci stanno seguendo. Quindi cos'è questo qui? Come direbbero gli americani? Come direbbe il nostro protagonista, il giornalista? Questo è... chatting? No, è proprio un little talk. Talking? Ecco, appunto, siccome sono piccole, little talks of Monster and Man, little talk. Dell'acce. Ship will carry our body safe to shore. Devi cliccare. Allora, no, stavo dicendo, guarda che bell'ingresso sfumato che mi hai fatto, e poi dico, ma io non mi sento in cuffia, ma come mai? E poi ho visto che il tasto non era cliccato. Ma io, c'è un problema di hardware, nel senso che qui il mouse è buono, però io non so perché quando ci vado a cliccare... Non è di mano, non è di hardware. Problema di mano, problema da villano. Vabbè, comunque, volevi dirci qualcosa? No. No, volevo dire una cosa. Ah, sì. Ora perché riparlerei un attimo. Abbiamo una rubrica. Siccome mandiamo sempre pezzi stranieri. Ah, questa è una delle novità. Allora, ecco. Questa è una delle fantasmagoriche novità di quest'anno. Sì. Una di quelle per cui chiuderanno la radio, diciamo. Sì, probabilmente sì. È che già qualcuno in realtà mi ha detto, ma no, però noi ce ne freghiamo. Sì. Perché a noi ci piace così. Come? Così. Così, proprio, vedete questo? Così ci piace. No, non lo vedono, se lo so. Siamo in radio. Ah, era una battuta, sottotitolo. Alla pagina 777 di Radio Video. No, di Radio Audio. Non lo so, comunque, insomma, no, stiamo incatramando. Volevamo dire sì. Che abbiamo detto che faremo delle nuove rubriche, delle nuove cose. Una di queste è la... canzone italiana. L'ho detto bene? Ti è piaciuto? Perché continui a ridere? Sembrano le presentatrici anni 80 della Rai. Siamo qui riuniti per trasmettervi adesso a Reti Unificate il discorso del Presidente della Repubblica. Buon ascolto. No, no, vabbè, non era questo. Però comunque è appunto una canzone italiana. Perché lo vogliamo fare? Perché per mettere altra musica, insomma, perché ora pure tu? Perché mettiamo sempre quelle, guardando serie TV per lo più inglesi, americani, anglofone, mettiamo musica anglofona, non è che loro passano. Ma anche perché anche le serie TV italiane che fanno. Sono non bellissime. È che abbiano questa gran bella musica di sottofondo, e soprattutto nella maggior parte dei casi anche lì non è che. Cioè... Posso fare glu glu glu glu? Fai glu glu glu. Comunque abbiamo deciso di inserire nel palinsesto, nel... È bellissimo il radio questo suono. È fantastico. Sognavo di farlo da quando ero bambino. Abbiamo deciso di inserire appunto una canzone di origine italiana. Ora non versare la gassosa... Piero, la gassosa sul microfono! Che uno Piero! Ce l'abbiamo che funziona, per favore. Allora, e tu ci stai versando la gassosa. Ho fatto attenzione e non l'ho fatto. Ci ho messo il tovagliolo. Dunque. Leonardo, io mi preoccuperei, però... Okay, è andato in bagno Leonardo, quindi ora non ci sta ascoltando. Cavolo. No, non è andato in bagno, è tornato. La gazzosa. No, Leo, tranquillo. Era... È andato in bagno col computer. Comunque, la canzone italiana di oggi, ma la mettiamo... Oh, abbiamo messo un brano adesso. No, ma dopo, ho annunciato che ci avremo una rubrica che tu devi stare sempre lì. Ecco. La mettiamo, ma non adesso. Ora parliamo invece... di un'altra serie che però io non vi consiglio. No, ma prima di parlare un'altra serie volevo dire un'altra cosa. Però pure tu mi rovini ste cose. Vai, dilla quest'altra cosa. Cos'è che volevo dire? Dire che c'è sempre il quiz. Vi ricordo che c'è sempre sì, il quiz. Ma tanto non ci chiama nessuno. Cui, contattateci su Skype. Oppure se... Leo mentre va al bagno ci può contattare. Tipo, può chiamare, noi gli facciamo le domande. La prima puntata si fa sempre al presidente la domanda, tipo, no? È dura. Presidente, stai andando di corpo bene? Puzza. Vabbè, basta. Comunque, quindi contattateci. Salutiamo Inef che ci lascia. Ciao Inef. Comunque contattateci per il quiz. Vai Piero con quello che stavi dicendo prima. Ti odio. Dunque, stavo grazie. Appunto dicendo che volevo presentarvi un'altra serie TV che però non vi consiglio. Non vi consiglio perché non è il mio genere, però... Magari è il loro. Appunto, perché è più quello tipo, sai, femminile, adolescenziale, un po' quello tipo Gossip Girl, The O.C., queste cose qua. Però Dawson Creek. Esatto, questa cosa qui, perché tratta di adolescenti per lo più, no? Ci sono queste due ragazzine. Ma anche qui sono 25 anni che fanno gli adolescenti? Oddio, oppure... non te lo so dire, forse sì però. Perché c'è sempre il certo problema che negli Stati Uniti non ci può essere. Secondo fare, me sì. Okay. Allora, la storia è presto detta. Ci sono delle gemelle che però sì, non sanno l'una dell'altra perché sono state separate alla nascita. Non è che le attrici sono le solite due gemelle? Che è una poi alla fine, visto che non si vedono mai in contemporanea. Si vedono spessissimo in contemporanea. No. Le gemelle, quelle di due che gemelle sì, a Parigi, due gemelle... Ma saranno cresciute quelle appunto, lì? No, non credo. No, ora sai, ci informiamo, sì. Informati. E comunque ci sono queste due belle giovani, giovinette, che riescono a ritrovarsi. Una vive in una famiglia ricchissima, con tutte le comodità, cioè tutte queste amiche fighe, lei è la reginetta della situazione, sempre a scuola, tutti vanno dietro a lei perché lei fa moto, lei fa cure, lei fa tutto. E l'altra invece chiaramente è sfigata. Ma come si chiama? Non l'abbiamo detto. The Lying Game. The Lying Game. Il sì, gioco della linea. No, lying. Mentira. Ah, il gioco della menzogna. Hai capito? E insomma, cosa succede? Diciamo che detto così, si ritrovano, sì, vabbè, però è la classica... E quindi? Cioè, sì, nel liceo, sì, fanno ste cose, sì, il ballo, sì. Però la cosa che io avrei già spento, diciamo, se fosse stato soltanto questo, vi avrei detto, non lo guardate, punto. E invece potete guardarlo perché nasconde una trama intrigante fatta di investigativo barra mistero. Perché... Queste due tizie sono state separate alla nascita. La madre è una sola e non si sa dove sta, però è viva, hanno scoperto che è viva. E quindi nel gioco di ritrovare tutte le tracce del passato, sì, una si sostituisce all'altra, cioè quella sfigata va a fare la figa, e la figa va a fare le ricerche, perché tanto quell'altra... Ah, perché la sfigata non se ne fregava niente. No, tanto era una famiglia fidataria, era scappata, poi da quel punto là non se ne fregava più nessuno. Ok. E quindi ci sono tutti questi intrecci, poi chiaramente gli intrecci amorosi, perché lei sostituisce, prende il ragazzo... No, ora non ve lo sto a dire, perché sennò sarebbe chiaramente... Spoiler! Ecco. Sempre più o meno le solite storie, però è più interessante. Poi ci sono delle tizie fighe che in realtà sono bruttissime, secondo me, quindi guardatelo anche per darmi soddisfazione riguardo a questo mio sentore. E questo è per quanto riguarda The Lying Games, game, punto singolare, game. Uno. Il gioco della menzogna. Ok. Poi volevo parlarvi anche di un'altra serie TV che invece è molto bella e di cui io invece dubitavo all'inizio. Dicevo, sarà sempre una solita cosa. Ma farà un po' schifo, sarà sempre il solito sfigato. Aspetta. Homeland si chiama. Cioè, innanzitutto cominciamo dal titolo, no? Allora, cosa succede? Siamo in Iraq. Ecco. Che c'è? Non ti piace l'Iraq? Vuoi andare in un'altra nazione? C'hanno il petrolio. Siamo in Iraq. Siamo in Iraq durante la ricerca di Saddam. Sai, quelle cose lì, tutta quella guerra che c'è stata, no? E c'è un agente speciale della CIA che è stata mandata lì in missione per salvare due tizi che erano stati rapiti. Ok. Riesce ad avere un contatto lei con un arabo. Ah, quindi l'agente della CIA è una lei. Sì, lei è una lei, scusate, non l'avevo detto. È appunto una lei. E lei riesce a ottenere un contatto con un tizio che però è in galera, pure questo come a Terranova. Allora lei va lì e lo implora di dirgli qualcosa perché non può agire, non può qualcosa. Intervenire. Qualcosa? Esatto, ma non in questo senso. E lui a un certo punto, pressato dal tempo, dal coso che deve salvare la famiglia, lo stanno per mandare al... Anche qui da salvare la famiglia. Sì, perché lui lo stanno per uccidere, quindi dice almeno la famiglia salviamola. Gli dice che il capo terrorista, che ora non mi ricordo il nome, Abu Nazir credo, guarda cosa mi sono ricordato, Abu Nazir ha convinto un militare americano a passare dalla loro parte. Ah, ok. Ok. Quindi c'è un infiltrato fra i militari americani. Ok. Però non si sa chi è, non si sa nulla di tutto questo. A un certo punto... Il pilot c'è stato, non è che possono svelarti... Mentre lui sta dicendo questa cosa, succede un bordello, entrano le guardie, lei era rimasta lì, quindi casino internazionale, la CIA la prende e le dice: tu per mo ti stai un po' tutto in panchina, ne torni a casa. Te ne torni a casa e la mette un po' in punizione. A un certo punto, dopo un annetto, arriva la notizia che hanno in un... come si dice quando fanno le entrate? Quelle... In una retata. Più o meno, sì, non era il termine che volevo usare io, però va bene anche retata. Okay. In una retata hanno trovato un militare americano che era stato rapito tanto tempo fa. Tutto barboso, così brutto. Un eroe americano è vivo, lo dobbiamo far diventare, cioè è un eroe perché lui si è sacrificato, ha passato tutti questi mesi in prigionia, così colà. Solo che lei ricorda il fatto che gli aveva detto quello lì, che Abu Nazir aveva preso. E questa è la spia? Non si capisce, però si lascia intendere che potrebbe essere. Allora, anche perché se no non ha prove, lei non ha prove. Deve fabbricarsi delle prove, deve trovare delle prove. Deve fabbricarci le prove. Fabbricarsi nel senso che deve lavorare. Non ci mente, il gioco del mentire, no, la serie quell'altra. Che è un... E invece deve fabbricare le prove nel senso che deve lavorare per trovare. Per capire, cioè, chi è questo tizio. In pratica gli mette delle microspie, delle telecamere e lo spia notte e giorno dentro casa per vedere se qualcuno lo chiama, se si mette in contatto con qualcuno di strano che parla arabo o comunque se fa movimenti strani. Uh-huh. Ed è molto bella perché si vede a un certo punto il militare che ha delle controversie interne perché rivede la moglie. Poi la cosa che avevo visto nel trailer era che la moglie di lui, sì, se la faceva con l'amico. E io ho detto sempre la solita cosa, basta. Invece poi ho guardato il pilot per intero ed è carina, ma veramente fatta bene, cioè... Ma sai quando tu non te l'aspetti, tu dici, parti proprio con tutti i pregiudizi. Ma perché guardarla? Perché guardarla? Dice, vabbè, faccio questo sacrificio, comincio, tanto poi il pilot e basta. Come faccio con più o meno tutte le... e poi le continui tutte, sì? No, non tutte. Infatti ho iniziato anche... Vabbè, poi ora finiamo questa. E invece è bella. Quindi... Sto dicendo, invece ho iniziato anche tu, Broke Girls. Non lo guardate. Ho iniziato anche Whitney. Ma quello non lo guardate perché non escono i sottotitoli. Cioè, guardatelo se sapete bene la lingua. Sì, ma comunque è un po' stantio come umorismo, diciamo così. E questo è quanto. Io ora passerei alla rubrica della canzone italica. Perfetto, la canzone italica di oggi è? È una canzone che non molti conoscono. Perché se no non la manderemmo noi. Esatto, la manderebbe, che ne so, poi i Politicazzi, l'unico programma che ora mi veniva. Oppure Mono, se oppure fare... All 90s Long, se mandava gli 883, voglio dire. Okay. No, noi mandiamo adesso, se lo trovo, un gruppo che si chiama gli Io ho sempre voglia. Io ho sempre voglia di un panino. Non sappiamo mai, se non li intervistiamo non sapremo mai di cosa hanno voglia. E comunque, di giocare al computer. Quello sei tu. Tu e i tuoi coinquilini, dunque, che ultimamente giocano anche alla TV, ma lasciamo stare. Salutiamo sia Claudio che Mario. Quindi ora mandiamo gli Ho sempre voglia, che sono un gruppo, indovina di dove, da dove li potevo prendere io. Pugliese sarà. Bravissimo, cioè, sono... basta però, cioè, proprio... conquisteremo il mondo. Sono gli Ho sempre voglia, sono di Monopoli e la canzone è negazionista perché si chiama E no. Tutto tutto maiuscolo. Eh no o e no? E no. È congiunzione, no, c'è negazione. C'è un po' di problemi con gli accenti, poi sulla e, è. Non ti mando a quel paese perché siamo in radio. Allora. Vedi, congiunzione è no. E. E no. E no. E no. Se è vero questi giorni ti ho un po' trascurato. Che te ne è parso? Intanto strano. C'era gente che inneggiava la Puglia in chat che tu non hai potuto godere. Però vedi, no, io ho letto un altro messaggio che mi ha fatto molto ridere. Ammetto che mi ha fatto molto ridere. La vuoi leggere a tutti? Dai, leggiamola a tutti perché magari c'è qualcuno che non sta seguendo la chat. Diciamo anche chi l'ha scritto. Un tale Leonardo underscore. Ah, che mi ricorda tanto Mr. President underscore anche. Scrive, aperte virgolette. Mm-hmm. Ieri ho comprato un iPhone. Ma quale ha comprato? Il 4S? Questo glielo potremmo chiedere. Beh, il 4S Leonardo non, è ancora in vendita. E magari è in pre-vendita. È in pre-vendita ma non è in vendita. E magari lui ha comprato. L'ha già preso. Comunque, ieri ho comprato un iPhone e oggi è morto Steve Jobs. Punto. Quasi quasi faccio l'abbonamento a Mediaset Premium. Chiuse virgolette. Io non dico altro. Ogni commento... Siamo apolitici sempre. Allora, quindi, qui mi si abbandona. No, ok. Ma adesso c'è... gli strani rumori. Salutiamo Luca. Ciao Luca. E c'è la nuova rubrica. No, non è nuova. È una rubrica che mettiamo adesso, giusto così, perché adesso... come riempitivo. Riempitivo, ma anche perché sappiamo che voi siete grandi affezionati a tante serie di TV di cui noi abbiamo già parlato. Allora, vorremmo... Loro? O noi? Loro. Bravi. Allora, vorremmo dirvi chi sta ricominciando. Perché o è già ricominciato. Perché magari non lo sanno. Chi sta ricominciando? Dimmelo. Ad esempio. Piano piano, poco a poco, Dexter. Come piace a noi. L'ho visto. La prima puntata della sesta stagione. E vi dico anche che è uscita il 2 ottobre, per cui a breve uscirà la seconda puntata. Che fai, la paternale? Sì, capi, la vedranno. Poi Fringe. Bello. Sempre bello Fringe. Sempre. Io l'avrei detto uguale, anche però, senza averla visto. Bello. Siamo già alla seconda puntata. L'ho vista. Sono in pari, sono in... Tu l'hai vista, aspetta. Io ho visto solo la prima. Sapevo che lui invece era indietro. Poi Glee. Glee. E Bea è forse già, in pari, vediamo. Che è già alla terza puntata. Non ci risponde Bea per il momento. Poi anche House è ricominciato. Io ho visto il Prier, che era con delle cose che... Però carino. Sì? Sì, carino, carino. Poi è ricominciato in maniera strepitosa o serie D. Cosa? O serie D. How I Met Your Mother. L'hai visto? L'ho visto. Tutte, se impari almeno. Tre, manca la quarta. Ah, anche la quarta usciti sottotitoli. No, cioè, sono già usciti, è uscita tre. Il 3 ottobre è uscita la quarta puntata. Spoiler? C'è uno spoiler? Facciamo spoiler. Spoiler. No, perché Luca stava bisbigliando qualcosa e ha detto, è uno spoiler. E allora ho detto, vai. Cioè, ci sono delle cose veramente fantastiche. Sì, a parte un balletto inutile, diciamo. Per me era inutile, però vabbè. Però vabbè, è poi, divertente. Poi Merlin, ne abbiamo parlato un po', era sì. Ricominciata la quarta stagione. Poi. Poi Supernatural. O Natural. La settima. Chissà come si pronuncerà. Supernatural. Ah, ok, no. Che ne so, vabbè, insomma, poi, io chiedevo, vai, poi. Con anche lì grandissimi effetti speciali, The Big Bang Theory. Sì, ricchi premi e Cotillon, poi. No, è fantastico, siamo già alla quarta puntata. Sì, anche quello l'ho visto. Poi... Comincerà The Walking comincerà, Dead. Comincerà The Walking Dead, sì, c'è stato qualcosa, ma comincerà a breve. Credo la settimana prossima. Può essere, non ho controllato, ma... La prossima ancora, prossima mi suggeriscono ancora, dalla regia. Mi suggeriscono la prossima ancora. Per adesso io non ho ulteriori aggiornamenti. Il 16 ottobre The Walking Dead. Bello, bello. Queste sono un po' le serie di cui sappiamo la gente appassionata che segue, eccetera, per cui volevamo dirlo e volevamo riempire un po' di spazio. Sì, va bene, l'abbiamo detto. Volevamo riempire un po' di spazio. Ecco, ora mandiamo una canzone. Mandiamo una canzone. Ecco, per riempire ancora di più lo spazio. Dunque, cosa ci propone adesso la playlist? Allora, possiamo cominciare... con questa che ho sentito di meno, quindi ho voglia di ascoltarla. E la dedichiamo. E questa la dici tu. Noi l'ho detto tutte io fino adesso. Vabbè, la dico io. La dedichiamo anche a chi? A Bernardo, che ci chiede un grandissimo saluto e noi di cuore lo salutiamo. Ciao Berni. E gli dedichiamo. Ieri l'ho ascoltato, tu non l'hai ascoltato. Non e io lavoravo. Cozzeggiavi, fatevi accendere la radio, insomma. Io, insomma, a Bernardo dedichiamo Wall of di Wilco. Dei Wilco. Dei Wilco, yes. Che ne so io. Rieccoci qui con questo attacco plastico. Stavamo chiacchierando. Sì, stavamo chiacchierando, ma vabbè. Comunque, un'altra cosa che volevamo dire, che volevamo far presente, è che esistono... Cosa? Gli alieni. Cui... Non mi dire di nuovo gli alieni perché hai rotto. Basta tu, le serie TV degli alieni, Visitor, l'Invasion, i V e tutti. No, Visitor non... Ah, vedi? Meno male. M'ha preso. È venuta sta voce un po' impastata. Comunque, no, un'altra cosa di cui volevamo parlare è che oltre alle serie TV, Esistono anche le web serie, web series. Yes. Che sono molto divertenti, cioè sono come le serie TV, però sono solo su internet. Sono molto divertenti. Alcune sono divertenti, alcune no. Cioè, poi quindi, quelle che ho visto sono tutte divertenti. Cosa hai visto? Chi te l'ha detto di vedere che cosa? Allora, qualcuno che è in questa stanza e che conduce un programma insieme a me. Ah, no, pensavo Luca, perché no, conduce un programma, ancora poteva essere lui. Insieme a me. Mm? Mi ha detto per 3 volte, guardati La deriva del panda. E io no, per lì non me lo ricordavo. Poi gli ho richiesto, ma cos'è che devo guardare? Guardati La deriva del panda. E io non capivo. Poi la terza volta... L'ho anche mandato via link la cosa, niente. La terza volta io l'ho richiesto. Lui, un po' scocciato, devo ammettere. Dice, vabbè, ma perché questa è l'ultima io volta. Io pensavo, ormai l'ha già vista. Non gli sarà piaciuta, non mi ha fatto sapere niente. Invece no, perché non avevo proprio visto. Ma l'ho dimenticato. Faccio, ma cos'è che mi ha detto... Guarda, La deriva del panda, mi ha mandato il link. Cercate La deriva del panda. Vimeo.com. Io credo si pronunci così. E siccome lo credo io, è giusto. Ah, La deriva del panda. Diciamo due cose sulla deriva del panda. Dimmele tu. Allora, dimmi tu. Racconta di 3 ragazzi e 3 ragazze. Mm. 3 ragazzi che sono coinquilini, no? Diciamo i classici studenti fuori sede, no? Che abitano in una casa a un piano X di un palazzo. Mm. Una casa tranquilla, carina, con un gatto. Ah, c'è un gatto. Vabbè, c'è un gatto. Si parla anche di un gatto. Questo cos'era? Spoiler. Vabbè, ma così lasciamo, no. Non l'hai detto, ma vabbè, io ho capito. Andiamo avanti. Comunque, a un certo punto, a un tratto, arrivano 3 ragazze nell'appartamento di fronte. Il pianerottolo. Come, insomma, la storia mia. Uguale. Sì, questa sì. Però voi siete in 4. È però loro 3. Quindi loro diciamo tre. C'è un po' diverso. C'è uno in più in casa nostra. Che sarebbe lì a reggere la candela lui. E in pratica cosa succede? Questi ragazzi provano ad approcciarsi con queste ragazze. Mentre queste ragazze all'inizio dicono, no, teniamoli a una certa distanza. Perché, insomma, cioè, sembra anche giusto. Finché non riescono a combinare una cena. Ah. E come va la cena? Ah, l'inizio è catastrofico. Cioè l'inizio sono... C'è Luca che riesce a fare solo un gesto perché non può parlare, ma è molto esplicativo. Però non, in radio tanto non si... Non rende. L'inizio è noiosissimo. C'è la classica cena noiosa con 2 gruppi. È imbarazzante. Uno dei loro sono lì, ragazzi, l'altro della ragazza. Poi uno fa una cretinata. Che a te è piaciuta tanto. Dire. No, in realtà no. Ah, ma pensavo no. Neanche a me. No, neanche a me. Infatti non capivo perché ridono. Cioè, fra tutte le cose che potevano fare, vabbè, e ridono. Cominciano a ridere e poi da lì si sciolgono. E si mettono a chiacchierare, così, eccetera. Ora, questa serie ha un problema. Cosa? Nel senso che finisce poco dopo quello che ho appena detto. Quindi non possiamo dire... Non possiamo dire granché. Né come finisce, anche se Luca vorrebbe saperlo. Il problema quindi... qual è? È che loro sono alla ricerca di qualcuno che li produca. Si riproduca, volevi dire? No. Che li finanzi. Ah, ok. Stai prendendo delle offerte. Passa col cestino, va. No, per cui non si sa se continuerà, o meno. Ma tu hai controllato ultimamente se c'era il nuovo episodio? Io non l'ho trovato, l'ho cercato la settimana scorsa, però non c'era. Però si può cercare subito. Andiamo su Google e cerchiamo. Ah no, così si arrabbia quello lì. Quello lì che conosci anche tu. Vabbè, andiamo su un motore di ricerca a caso. Ok, vedi, no, penso che non c'è. No, il primo devi guardare. Devi aprire. No, apri il primo. Sì, ma qui non se non accanto ti esce l'altro episodio, cioè, vedi, non c'è solo l'episodio 0. C'è solo l'episodio 0. Sono 20 minuti. Ma mi vuoi spiegare una cosa? Sì. Perché se no la gente si domanda a casa, La deriva del panda, ma perché? E io non ho capito. Mamma mia, fai cadere le braccia. No, cioè, allora, c'è una tizia La deriva che... del panda è perché c'è una tizia che ha studiato queste cose qua e dice il panda ha questo problema, che la femmina entra in calore soltanto 2 settimane all'anno. Ed emana una scia di ferormoni troppo debole. E il maschio, siccome già è bacchettone per i fatti suoi, in più sta scia è tanto debole, non si accoppiano. E quindi sta scomparendo. Da qui la deriva del panda. era difficile, lo dice. Tu non sei attento, fai altre cose mentre guardi le serie TV. Non va bene, ti punirò. Luca dice che fa altre cose che sarebbero interessanti, ma adesso mandiamo un ulteriore pezzo e poi passiamo al quiz. Straordinario, questa volta è quiz. Straordinario quiz. Eccoci qui. Ora, io non mi sento. Sì, ora mi sento. Ok. È un problema. Diventato sordo tutto un ero tempo. Momentaneamente diventato sordo, sì. Piccolo okay. Problema di qua. Ora puoi presentare i brani che avevamo lanciato senza lanciarli, cioè li avevamo spazzati lì. Allora, abbiamo lanciato Tonight I Have to Leave It di Shootout Loads, giusto? Sì, più o meno. E How Good It Feels di Will Daly. Andiamo. So anche leggere. Dunque. Ma non so pronunciare, ma è un'altra storia. No, non è un problema. Allora, avevamo preannunciato invece il quiz. Ora, il quiz, per qualche piccolo problema tecnico, Leo maledetto, non no, possiamo farlo bene. Ai nostri web ascoltatori. Per ma cui c'è un ascoltatore che è qui. E allora abbiamo detto, sfruttiamo il nostro ascoltatore che è qui. E si chiama? Intervistiamolo. Luca. Ciao. Ciao, come ti chiami e da dove vieni? Luca, da Pisa. Oh, ciao Luca, sei felicissimo vedo di partecipare al nostro quiz. In realtà è molto tempo che provo a chiamarvi, ma i centralini mi danno sempre problemi. Finalmente sono riuscito a esaudire un po' questo mio sogno recondito. Che bello, quando sono, hanno proprio tanta voglia di partecipare e ti fanno felici gli ascoltatori. Perfetto. Ma passiamo direttamente subito alla prima domanda. Allora, la prima domanda è difficile, però ci abbiamo qui il nostro aiuto da studio, che sei tu. Ah, non lo sapevo, devo dare l'aiuto. Vabbè. Allora, quale serial televisivo, seguitissimo in tutto il mondo, ha avuto come protagonista femminile Jane Wyman, prima moglie del futuro presidente degli Stati Uniti ed ex attore Ronald Reagan? Quindi sì. Sta parlando di una serie... È una domanda a risposta aperta oppure sono delle opzioni? Ci sono delle opzioni, ora meno male. No, tanto la sapevi, la sapeva già. No, perché non mi ricordo di preciso l'accento su quale lettera va. Ah, ok, ma tanto ora te la leggerai, Tommaso, la mia pronuncia non ti preoccupare. Dynasty. Yes. Falcon Crest. Dallas. Beautiful. Che è un invito, Dallas. No, scusa. In spagnolo. Ora, niente. Cioè, posso allora, quanto tempo ho più o meno? Puoi pensare liberamente. Dici, se non ti muovi poi inizi in ritardo il tuo programma e quindi sarà il caso. Sono molto indeciso tra Dynasty e com'era quell'altro, Dallas? Dallas magari sei indeciso anche, che ne so, fra Falcon Crest. Che cacchio è Falcon Crest? Mi suona molto di tipo... Punk, cioè la cresta. Facciamo Dynasty. Diciamo Dynasty. Ma tu sei proprio sicuro? Ma eri indeciso, no? Fra Dynasty e Falcon Crest. Ah no, dunque, allora proviamo Falcon Crest, dai. Ma vai per Falcon Crest. E la risposta è esatta. Grande. Vedi. Infatti, Jane Wyman, 1917, è morta recentemente nel 2007, sposata con l'attore e futuro presidente bla bla bla bla. Che avevamo già detto. Rilanciò la sua carriera con il ruolo di Angela Channing nella soap, proprio Falcon Crest. È pure una soap, cioè. È una soap. No, è che l'ho vista qualche anno fa, Falcon Crest, quindi non me la ricordo più. Infatti, molto in dettaglio. Ma okay. Però lei sì, no, ma adesso che mi ci fate pensare, certo. Ok. Ora, domanda numero 2. Question number 2. Questa è di cultura generale. Presso quale numero di Smithry Lane, poi te lo faccio leggere perché magari è più facile, abita la bizzarra famiglia Adams? Questa vedo accendersi lo sguardo, allora, la sa. Tanto è facile, perché 0001 113 1717 313. Ora, tre numeri. Io speravo 666, però vada per il 1717. Ma sei proprio sicuro o sei indeciso con un'altra? No, sono... Boh, non lo so. Se no, però ripensandoci, quante case ci staranno mai sulla via della famiglia Adams? Beh, facciamo allora la A. Che è? Che numero è? E in effetti è così. Beh, vedi che ospiti preparati. Perché non ci pensava all'inizio, si è dovuto concentrare, però ce l'ha fatta, sì. E infatti giusto. Perché l'unica villa che c'è lì, lugubrissima, è appunto la loro casa. Ultima domanda. Con che titolo venne presentata all'inizio in Italia la sitcom, e ora la mia pronuncia è fantastica, perché c'è un apostrofo? Vabbè, falla America, Different Strokes. Different Strokes, nella quale il protagonista è un divertente bambino di colore di nome Arnold. Non vuole nemmeno leggere le... No, in realtà sì, però volevo dire bonci, bonci, bom bom. Vai. Allora, A, Il mio amico Arnold. B, Piccola peste. C, Scacco al razzismo. D, Harlem contro Manhattan. Allora, sono un attimo indeciso tra Scacco al razzismo e Harlem contro Manhattan. Pensaci, cosa può essere? Dunque... Sarà, presumo, Harlem contro Manhattan, immagino. E infatti è così. Non ti sei neanche fatto trarre in inganno da Il mio migliore amico Arnold. Il mio amico Arnold, non migliore. Beh, il tuo magari è il migliore, non lo so, sappiamo. E... Ero tentato, però... Però no. Vabbè. E effettivamente quindi, era Harlem contro Manhattan, quindi hai vinto. Complimenti. Non abbiamo gli applausi. La Jingle Machine. La Jingle Machine va... La sistemeremo. E quindi anche te hai vinto una fantastica tazza virtuale, non più virtuale, ma soprattutto virtuale, degli spaccia serie che ti arriverà. Ora ci organizziamo. Certo. In qualche modo. E noi siamo contentissimi di averti avuto come ospite al quiz. Ti ringraziamo. E ora i saluti finali e poi lasciamo la linea a uno che non conosciamo bene, che non ha parlato ancora per oggi. Infatti, allora, salutiamo tutti i nostri web ascoltatori che sono tornati ad ascoltarci e sono felicissimi di averlo fatto, speriamo. Perfetto. Leo la sapeva, le sapeva tutte. Ha detto io la so la prima volta, io la so la seconda volta, io la so la terza volta, le sa ma tutte. Forse era sempre per la stessa, però. No, non sappiamo questo. Quindi noi ipotizziamo che il presidente le sappia tutte. Sempre sa tutto il presidente. Comunque salutiamo i nostri web ascoltatori. Ricordiamo che ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, quindi dalle 20 alle 22, dopo Mono e prima di Online is Long. Bravissimo. Non abbiamo più un programma che ci introduce. No, non abbiamo più. Quindi niente. Monoserie. E quindi settimana prossima, questa volta però con la puntata seria. Ah sì, cioè sulle serie. Cioè su una serie. Perché serie, una serie. Una serie, okay. Una serie seria. Va bene, basta questo gioco. E non daremo delle anticipazioni ancora. Forse no, un ospite, ma vediamo. Cercheremo anche di avere come sempre i nostri ospiti. Come sempre avremo un quiz e probabilmente inseriremo altre nuove fantasmagoriche rubriche. Sì, forse sì, forse se riusciamo a registrarle. Proviamo a registrarle. Ok. Bene, ora mandiamo l'ultimo pezzo. Sono 4 minuti e un quarto, ti va bene? Va benissimo. Sono gli Stars con Your Ex Lover is Dead. Il tuo ex amante è morto, mi dispiace. Salutiamo l'amante. Il tuo ex amante è morto. Vabbè. Ah, perché sei pure. Fai partire la musica. Ciao! Ciao a tutti. Have to set yourself on fire.